Anche così, più 40 euro, 41 euro costa. Cioè prendi 20 litri, il vermo che costa è torna a 40 euro. E sicuramente aumenta, però se tu fai il conto che questa stufetta con quel motorino che stai dicendo tu ti fa lo stesso consumo di un Arzibro che fa più o meno 0,5 a ora, però 20 litri di conto diviso su dal telefono, ti vediamo tutti. Mi rinampate il lutto! No, sì, è così, Robè, è giusto, è giusto. Sì, è così. Sì, è come? Ci sei, dai? Sì, sì, sono qua, sono qua. E stavo dicendo, 40 diviso 20 sono 2 euro al litro, il coso, più o meno lo stesso prezzo, però se quella rende di più... E tu pensa che io qua in questa camera sto bene e ce l'ho attaccata, non so se hai visto il video... Ce l'ho attaccata già 4 ore e mezzo e in questa camera c'ho 25 gradi e sto benissimo. No, casa mia è un bel fredda, perché sono di quelle vecchia concezione, orientata dalla parte sbagliata. D'estate mi prendo tutto il caldo, io da maggio e biglio tutto il sole dalla mattina fino alla sera al tramonto. D'inverno non ne vedo di sole, perché è tutt'altra parte, dall'altra parte del palazzo, per cui è un bel fredda a casa mia, viene proprio freddo. Io non sono freddoloso, però uno che non è abituato ci sta male in casa, devi arrangiarti con delle stufe, pompa di calore, termosifone ce li ho, però li abbiamo esclusi perché, come ti ho detto prima, troppa mafia c'era, alla fine ognuno si arrangia per conto suo, mi arrangio io con quella stufa e diciamo me la metto nella stanza, e poi c'è uno di quei generatori ad aria calda tipo quelli industriali, quello se la mette mia figlia in camera sua, io in camera mia ho la pompa di calore, quando c'è troppo freddo mi attacco quella lì, e così in un altro locale. Ok, di nuovo a te, Dani. No, io lo stesso, me la sono presa perché la stufa a pellet qua in queste due camere non ci arriva, perché la camera di mia figlia rimane a spalle della cucina, a spalle della stufa della cucina, giusto? Qua in questa camera che c'è di fronte alla camera di mia figlia, no, lo stesso, non ci arriva la stufa a pellet scalda tutta quanta la camera da letto e il soggiorno e la cucina. E così arriva appena appena in camera da letto. Solo che a me il caldo non mi biasi, mi piace più il freddo, perché se c'è freddo ti copri, se c'è caldo non ti puoi mai togliere la pelle. E sto bene, non mi lamento. Ma no, io stufa a pellet non la posso neanche mettere, almeno per metterla la vorrei mettere in corridoio, però il corridoio è lungo 13 metri, infatti ho conto il corridoio io, il problema è lo scarico dei fumi, ci vuole farlo, bisogna fare uno scarico forzato, lasciamo perdere, ho preferito non mettere niente, a meno che lo metto in un altro salone grande, ma lì non ci sto, è un ambiente separato da dove ci vivo, per cui non me la fuzzi nulla, mi arrangio così, dai. E basta. Certo, se avessi messo una stufa a pellet canalizzata, tutti i problemi sarebbero stati risolti, ma non, a parte che non mi piacciono a me queste stufe a pellet, mi fa sempre comprando, mettendo, pulendo, cioè mio fratello alla fine non so se gli convenga molto, perché spendono una barca di soldi di questo pellet, lui vabbè c'è una casa grande e non lo so, io preferisco, se stai in quell'ambiente ti scaldi quell'ambiente lì, poi te ne vai nell'altro e ti scaldi l'altro ambiente, e non ti scaldate, tu a casa mio fratello devi stare 30 gradi fissi, ce n'è da morire, infatti dico, ma come si fa a vivere qua? Tutto a manetta, tutto a palla. No, così no, così muori. Allora, noi la maggior parte del giorno siamo sempre in soggiorno e a pranzo in cucina, quindi quelle due stanze ce le teniamo sempre calde. Poi questa camera, la camera di mia figlia, la attacchiamo sempre questa stufetta, questo riscaldamento, questo per basso, al modo così riesce a stemperare un pochino. Però io in camera da letto sto bene, non ho mai detto io c'ho freddo, proprio zero, anzi, si sta benissimo. Sì, ma poi tu già sei abituato allo freddo, quel lavoro che fai, come me? Io lavoro all'aria aperta, il brutto è quello, che quando piove sono sotto l'acqua, quando nevica sono sotto la neve, quando c'è vento sono sotto il vento. Ed è stato il peggio. Ed è stato, mi devo cercare i punti freddi, perché d'estate è una cosa allucinante per me. Ma tu usi il cannello a taglio pure? Il sudore dalla fronte che mi cola sopra il naso, che è goccia a goccia, plic plic plic, da niente non mi pulirà mai gridì. Quando mi hanno visto sudare mi hanno detto, guarda poco sud, tu sei marato, guarda marato, sono così io di costituzione, io sudo, io d'estate sud e d'inverno sto benissimo. Infatti mi dicono, ah, ma non hai freddo, sempre in felpina, sì. E io sto bene. No, anche io il freddo lo sopporto, al limite ti copri, ma il caldo, io il caldo muoio, proprio al mare, per dire, o sono dentro l'acqua, io, vabbè, per forza all'ombra, non sono tipo che sta sotto il sole, assolutamente. Infatti tutto l'estate, diciamo da luglio sino a fine agosto, ho la pompa di calore accesa la notte, se no non riesco a dormire, perché casa mia arriva a 30 gradi, va proprio caldo, caldo, con tutte le avvolgibili abbassate, le finestre tutte aperte, ce n'è da morire in camera da letto, dove sto io. Se vai nell'altra camera di mia figlia è un po' meglio, ma io mi prendo il sole in pieno, poi mamma mia, infatti quest'estate, già di queste estate tengo al minimo la pompa di calore, ce l'ho sopra la testa, che il climatizzato è proprio sopra la testata del letto, a un metro e mezzo dalla testa mia, 2 metri, là. E magari con l'aria ghiacciata, cazzo, che te lo butta proprio giù sopra la testa. Se no non ci può stare, guarda, io la notte non riuscivo a dormire, per forza, non sono dovuto comprare il climatizzatore, se no la camera mia si moriva da caldo, non è possibile. Col freddo già ti dà una coperta in più, un pigiama, gli atterranti, ma quando c'è caldo mi portavo, vabbè, in questa casa sì, non ho mai avuto problemi, all'inizio appena sposato non ce l'avevo ancora il climatizzatore, con lo spruzzino mi vazio la luce la notte, quei spruzzini che li buttavo in acqua, tipo pioggerellina, ogni tanto due schizzetti per raffreddare. E comunque ti stavamo aspettando ieri, buonasera. Chi è? Ho detto, comunque ieri sera ti stavamo aspettando, ieri a pranzo. Ah, ciao Tino, scusa, non ti ho riconosciuto. Ma gli ha detto, guarda cosa è successo. Sì, gli ho detto. Ciao Gianni. Tutto a posto. Siamo entrati a mezz'ora fra i Farrafa. Ma quelli vi siete trattenuti anche sul tardi? Lo sai che ieri sera ero libero poi? No, siamo andati a mezz'ora al ristorante, siamo usciti, mezz'ora fa, per mettere la macchina a posto. Niente. Mi ha fatto sordo Claudio, cazzo. C'è un'altra furia con le trombe dietro di me, mi ha assordato. Ma ho pigliato una macchina confortevole, ora, quella, cioè, a parte per freddo, vabbè, oggi la giornata già era bella. Che macchina avete usato oltre la Fulvia? C'era la Maserati, la Mercedes e la Fetta. Vabbè, già era una bella macchina, perché ho detto, non andare in 500, o c'è anche rimanere per Mappedi. Comunque c'è anche Danilo, aspetta, te lo rilancio, Danilo per Tino, va. Sì, già me ne sono accorto che era Tino. Ciao, vabbè, dai, siamo vicini. Bocca acceso, Vabbè, dai, bella serata, bella giornata, dai. Riprendi Gianni. Gianni, dove è Gianni? C'era Gianni. Ma Gianni non c'era, non l'ho sentito. Io Gianni e c'è stato un attimino Cristian. Allora sono confuso. No, dico a pranzo ieri, a che l'avete terminato, Tino? Sì, lascia perdere, abbiamo iniziato a mangiare verso le 2 qualcosa. Sì, perché Fabrizio ha smesso l'una di lavorare, per una cosa l'altra è arrivata 1:30, ancora era pronto, verso le 2, e abbiamo finito per la sera, verso le 6, credo. Ma la sera sarei anche passato, ti ripeto, è venuta l'amica di mia figlia, me l'ho accompagnata poco fa, alle 5 a prendere l'aereo da Milano e sono rimasto con loro, no? Ma vabbè, non sei venuto in ogni caso, non posso dire sapendolo prima perché ero con loro, dai, per non lasciarle in coso, per spostarsi, eccetera. Però già capiterà la prossima volta, gli ho detto a Walter, volentieri, mi ha fatto piacere che mi ha invitato. Chi eravate? Tu, Fabrizio, Walter, poi chi c'era? Vabbè, dove c'era Gloria Alghero, non so fare nome. E niente, basta. Però eravate tanti, quindi pochi ma buoni, dai. Ah sì, solitamente 6-8 massimo persone, Ok, vai Danilo, a te. No, stavo parlando, non so se hai sentito il discorso di riscaldamento, di verbasse, cose del genere. Danilo, ci saranno dei consigli? No, Danilo, io a proposito ti volevo chiamare, mi ricordo benissimo che ne avevi 2, e infatti ti volevo chiamare per vedere se uno lo vendevi. Anche Roberto uno gliene serve, se non sbaglio, così stiamo organizzando. Sì, che dobbiamo fare razza per prenderlo. No, aspetta un attimino, la proposta da tempo, io non me ce ne sta mai. Ti sto scherzando, ti pigliano tu, non ci sono problemi. No, anche perché poi qualche uno lo dovrà anche collegare. No, aspetta, mi serve una cosa tecnica più che altro. Allora, avevo intenzione, ma permettere che la storia di mio figlio non è così enorme, e siccome soffro molto del freddo, stavo pensando, adesso diciamo una coordinata, correggetemi se sbaglio, di piazzarlo fuori e di utilizzarlo con, facendo un foro con la calottatrice, mandando l'aria calda dall'esterno verso l'interno. Si può fare o è sconsigliato? Con quella d'aria calda ce lo puoi fare. Solo che io ho quelli che fanno acqua calda. No, quello non mi interessa. A me interessa aria calda. Perché mi sta costando un patrimonio in fronte di calore. Poi oggi come sta aumentando anche la luce, è una cosa da non credere. Sì, ma io l'avrei alimentato, vabbè, giustamente, anche se costa quasi 2 euro al litro, fra un po', giusto? Comunque, quello che sta dicendo che ce l'ha già piazzato Danilo, Pino, non è che stiamo piazzando diversi nelle macchine, sono a bomba, d'aria calda, come l'ha messo Danilo, esternamente ha fatto il buco con la carotatrice, l'ha messo, gli ha fatto un contenitore esterno, c'è il battoietto, alimentato a 12 volt, funziona benissimo, certo non ti riscalda la casa, ma un ambiente te lo fa a voglia. Sì, ma la mia domanda non era tanto quella, la mia domanda è, usandolo più volte al giorno o tutto il giorno, è consigliabile, punto di domanda, quanto può durare? Perché quelle lì sono cose che potresti utilizzare in un campo, perché al momento che arriva la temperatura dell'aria, attacco lo spegni. Da promettere che lo vorrei far funzionare adesso 4-5 ore di seguito, ecco cosa voglio dire io. Sì, puoi fare anche così, Tino. Io lo stesso me l'accendo quando voglio io e lo spengo quando voglio io. E tu pensa che, siccome io mi scrivo sempre tutto, pensa che la settimana scorsa, questa settimana che è passata, con 10 litri, proprio che ce n'erano ancora un paio di litri, ho fatto 22 ore e 69 minuti. La volta scorsa, 2 settimane fa, ho fatto 25 ore e 4 minuti, sempre con 10 litri, perché io lo carico a 10 a 10, così so più o meno quanti litri me ne sto consumando e mi tengo più o meno i bidoni sempre in quella quantità lì, capito? Sì, però non le fatti consecutive le ore. La mia domanda è questa, se io lo uso per dire che adesso 8 ore continuamente, sempre tutta la notte, avanti, adesso dalle 10 sino alle 6 del mattino, può causare danno a lui oppure non gliene frega niente, va finché va? No, non succede niente, anzi, è come averlo sempre acceso dentro il camper, non succede niente, la stessa cosa. Ovviamente mica glielo tiene a manetta come lo tengo io adesso, glielo tiene un pochino più basso di watt, gli abbassi i watt, e l'aria invece di fartelo uscire a manetta forte e calda, te la tiene un pochino più costante. Perché adesso se io ci metto la mano davanti, non riesco a tenerla molto. Con Roberto stavamo parlando che se prendo il termometro, infatti gli ho fatto vedere anche un video, e lo metto davanti a 30 cm, in pochi secondi sale a 50 gradi. A 50, però io non lo tolgo subito. Però se lo metto davanti al bocchettone, a una decina, 20 cm, l'aria sale oltre 70 gradi, perché il termometro che ho io arriva fino a 70 gradi al massimo. La camera 8 ore fissa con quell'aria così calda, ma dopo io domani te lo trovano arrosso. No, vabbè, era una cosa, sai, te ne ho parlato io dei pannelli solari che ho preso quelle batterie lì e ho fatto una sorta di corrente alternativa per creare, più che altro, perché adesso non lo sto utilizzando, al momento che potrebbe servire ce l'ho pronto a fare. Non lo attacco perché insomma, l'ho già anche detto in radio, mi aumenta il corrente della radio, quindi mi porta da Santiago 3 a Santiago 9, 9:10, quindi le persone al massimo non ascolto per niente, quindi evito di tenerlo acceso. Però è una cosa interessante questa, perché potrei risparmiare qualche cosina in più in luce, ecco. Hai capito? Vai, Roberto. Ascoltate, c'è c'era qualcuno stava chiamando sotto, non so se sia propaganda, avanti che voleva entrare. Chi sei, Carlo? Sì, Carlo, ti sento quasi sette, però c'hai CQRM sì, per cui ti tiro fuori con le pinze. Vediamo se loro ti hanno ascoltato un po' meglio. Avanti, Danilo, per Carlo. No, io proprio zero, io non ho sentito proprio nessuno. Io lo ascolto leggero leggero, ma proprio a mezzo correme, quindi non riesco a capirlo. Levanti tu, vabbè. Registrato, un attimino. Carlo, stai rientrando a Sassari o stai andando ad Alghero? Ti tiro fuori con le pinze, anche io ti tiro fuori, adesso ho capito quello che è, ma un po' di QRM alto, per cui ti sento male. Vai, quando ti avvicini vediamo un po' se riusciamo a ascoltarti un po' meglio tutti quanti. Adesso facciamo entrare, mi sembra, Gianni. Avanti, Gianni. Parlo bene avanti, Carlo. Buonasera a tutti. Carlo, vieni avanti, a ver se ti ascolto. Adesso sì. Anch'io. E anche io sono riuscito a sentire qualcosa. Sì, ti ascolto, Carlo. Un Santiago di 3 e un Maranaggio di 4, Scappa, Carlo, dai. Non so se tu mi stai ascoltando bene, io ti ascolto Santiago 3, però ti ascolto, dai. Come si avvicina? 7 sei qua. Come ti avvicini ti sentiamo un po' meglio, dai. Ok, facciamo saluto agli anziani, vai prima Tino e poi Danilo. Ciao Carlo, adesso anche ti ascolto Santiago 7. Ciao Gianni, ben entrato. Vai, dai. Sì, io lo sento a malapena, anche se c'ho QRM a 3, però lo sento basso, basso, basso, proprio quasi invisibile. Sì, ciao Gianni, ben sentito. Ciao Danilo, io saluto a tutti cordialmente, dai, ben sentito anche a te. E Tino, come fai a saltare il Santiago 7? Ma a casa sì? Sì, sì, adesso devo fare un passaggio, Carlo, al Santiago 7. Adesso Santiago 5. No, io ho quasi 9, quindi io invece 7, ho sentito l'argentiere Lago di Baras. 8 tenente al 9 coi picchi. Adesso ti ascoltiamo tutti bene, dai, meglio così, Carlo, poi piano piano arriverai a bomboletta. Ok, no Tino, poi c'è anche la possibilità di quel verbatto di attaccare il termosifone, quella è la cosa più bellina. No, io non ho fatto questa cosa qua, non ho fatto neanche la predisposizione, sai, sono quelle cose che poi lo faccio. Poi lo faccio invece poi, quel poi è rimasto definitivo così e non l'ho mai potuto fare, nonostante tutto diciamo che ho carta bianca qua e quindi nessuno lo impediva, però ho detto al limite da fuori, faccio due fuori e metto riscaldamento e è andata così, poi c'è stato un calo di prezzo, di soldi e ho evitato anche quelle spese lì. Ma tu ce l'hai il termosifone comunque tutti, no? No, ho detto poi lo faccio, ma il poi è stato definitivo, non l'hai fatto. E dimmi un po' invece tu, Danilo, il verbatto, quello dei veicoli, come rumore com'è? Come rumore? Un aereo che senti proprio con le cuffie da lontano. Proprio si sente, infatti, leggero leggero, non è fastidioso. Scappa, quindi è sopportabile anche la notte, dico. E intanto di nuovo ce l'hai fuori, non lo senti? Io questa stufa la sento così perché c'ho la ventola. La ventola, quella ventola già la senti, però non è fastidiosa, anzi è anche conciliante per il sonno. Comunque, Pertino, ne ho uno a 24 volt di questi verbatto ad aria calda, però non c'ho il display. E se riusciamo a accenderlo, lo possiamo provare. Però se lo proviamo va solamente a manetta, non riusciamo a tararlo. Ah, ho capito. Vabbè, lì arriverà il punto che quando arriva una certa temperatura metto un termostato e gli faccio staccare la corrente tramite il termostato, cosa dici? Boh, quello non te lo so dire, se no che si piazza un relè e appena arriva quella temperatura si blocca. Dopo quando scende nuovamente si riattiva, l'unica è fare così. Sì, interessante, già mi interessa, vediamo di se riusciamo a metterlo a posto. Stavo per prendere anche quelli cinesi, ma quelli da 100 150, 160 euro, se non mi ricordo, però si metteranno al campo adesso. Mattino, lo sai, c'è anche un'altra possibilità. No, tu puoi venire a cercare una possibilità per mettere il frigo, che siamo arrivati un po' così, un discorso non finito la volta scorsa, che quello mi interessa. Vabbè, quello puoi fare. No, io sto parlando, tu non hai termosifoni, però tu vivi in casa indipendente, confermi? Sì, questa è casa mia, non ce ne sono fuori da fastidio. Per cui uno può fare, come stavo pensando anche io il termosifone ce l'ho, però per dire, ti devi fare due ambienti, tanto quelli per basso di auto un paio riescono a alimentarli. Prendi quei coso, quei termosifoni, quelli che si mettono l'acqua, tipo termoconvettori, non so se l'hai visto, che hanno il liquido interno, collegandosi con un tubo direttamente diretto a uno di quelli e per basso fuori, a parte in fuori, con il serbatoietto per il recupero dell'acqua e vai con quello lì e ti usi un termosifone con le ruote, quelli che usano, hai capito, quelli che si usano per casa molte volte, che mi sembra ne uno di quelli, con le ruote te lo sposti dove vuoi tu, te lo avvicini e ci fa un tubo esterno, magari con quasi che fare il buco largo per con la carotatrice, un tubicino per passare quest'acqua fredda, c'è fredda a casa. Ho capito, ma quello lì non ne avevo, quello che avevo io l'ho regalato, era olio, se non mi sbaglio, quando lo accendevo, sinceramente, a prescindere da mandiamo avanti anche Gianni, pensa mai, a prescindere dalla corrente che succedeva, perché era più di 2000 watt, facevo 2000 e 4000 watt addirittura, però lasciavo sempre 2000 perché 4000 mi saltava la luce, facevo un odore strano, un odore, sai, quando si appoggia la polvere in una fonte di calore, quello odore è un po' stomachevole, ecco, non mi piaceva, quindi lo per buttarlo a chi necessitava, insomma, l'ho regalato. L'ho eliminato poi. Vai Gianni. Sì, io ho fatto un servizio perché fatto, ma ora per pensare sempre. Positiva, no, sono delle, praticamente, tra virgolette, chiamiamole così, delle invenzioni che fai per poter risparmiare un pochino in quanto la spesa dell'energia elettrica quanto riguarda la pompa di calore è molto alta, quindi cerchi la maniera di scaldarti spendendo meno cose possibili, diciamo. Io ho la stufa a legna, ma anche qua lì volevo mettere una sorta di ventola per mandare l'aria nella canna fumaria, nella piastra dove scalda di più, per espanderla il più possibile nella stanza, capito? Sono cose che di tanto uno, mi piace inventare qualche cosina di diverso. No, sai com'è che potresti fare così? Ti devi fare una sorta di serpentina a tubo dentro, dove c'è le azimine, in poche parole, dove c'è il fuoco, anche sotto, dove c'è il TA, la base. Ci fai il fuoco e da una parte fai entrare l'aria con una ventola e dall'altra la porti a canalizzare nelle altre camere che ti serve. Sì, vabbè, è un lavoro un po' più complicato, voi, perché poi mi rimarrà questo tubo volante, perché sono in cucina, poi ho un arco che separa la cucina dal salone e poi altre tre scalini che separano la cucina dalle camere da letto e bagno e quant'altro, capito? Quindi mi verrebbe una sorta di tubo esterno che non è bellissimo. Però ti potresti canalizzare all'uscita della ziminea, il tubo arrivare fino alla fine della ziminea, però riesci a spingerti tutta quanta l'aria calda che non ti spinge la ziminea. Anche così potresti fare, in poche parole il tubo ce l'hai solamente dentro la ziminea. No, io non ho, poi ti faccio a Roberto, io non ho la ziminea, io ho una stufa a legna, una classica che c'è la pelle è a legna, capito? Ah, ce l'ho capito adesso. Ce l'avevamo anche noi a casa di mamma, quella della Niki che faceva tutto, potevi servire anche la roba, stavo mettendo per servire la roba, una cosa per fare l'acqua calda, potevi togliere i gini che c'erano sopra per fare la cosa arrosto, c'era il forno, c'era tutto. È una bella storia, scalda molto di più di quelle pelle, da premettere che vabbè, il fuoco fa compagnia, come tutti noi sappiamo, però è anche vero che giustamente, ci sono pro e contro. Quando apre che metti la legna, un po' di odorino di legna bruciata fuoriesce, al contrario di quella a pellet che rimane sul pulito, ecco, scalda di meno, però non fa questa roba qua. Pannelli solari, ma cosa c'è? Che cosa c'è? A mettere pannelli solari per l'energia elettrica. Sì, ce l'ho io. Allora, ne avevo procurato sì dalla provincia di Sassari, che c'era mia compagna che ci lavorava, e sì, ne ha procurati belli grandi, da 24 volt, siamo a 380 watt, se non ricordo, e infatti due, uno l'avevo che ho fatto in una ruota che avevo prima, e uno l'ho regalato invece a Vannino, di Sorso, e niente, quelli ce li ho, collegate quattro batterie, credo che siano da quanto sono, 100, 120, adesso non mi ricordo. Li utilizzi per fare che programma, per salvare l'acqua allo scaldavani, tutto questo? No, non essere così, no. A prescindere che ci vuole un inverter abbastanza grosso, io ne ho uno da 2000, con picchi da 4000, ma credo che 2000 watt non li dia, perché se metti un forno da 1500, massimo 1800, te lo porta, ma in base a quello che infatti consuma le batterie, me che non si dica, insomma, non è che lo puoi lasciare tutto il giorno acceso, ecco. Allora, sono i tuoi conti, sono le cose. Quindi, è passato aumentando questa energia, bisogna trovare una soluzione davvero. Allora, diciamo che la soluzione ci sarebbe, è che ti costa molto, perché basta che tu hai un po' di batterie con un accumulo di batterie, insomma, abbastanza efficiente, e poi dovresti spendere dei quattrini per prenderti un bel inverter. Dopodiché devi consumare il più possibile, per dire la mattina quando c'è una bella giornata, mi dà che i pannelli caricano le batterie e tu consumi, la notte vai un po' più a rilento. Bravo Tino, vedo che hai incominciato a capire come funziona. No, vabbè, io questa cosa qua so da anni, non è che sono così bravo a fare determinati collegamenti, però la teoria è semplice, giustamente quella è. Sì, infatti è quella lì. Solo che fino a quando la gente non lo tassa veramente non ci crederà mai, quello è. Sì, cos'è che oggi come oggi costano parecchio questi inverter, quelli che trovi in commercio, quello che sia, giusto per accenderti un telefonino, una televisione, un radio. Una cosa che io ho provato anche un fornetto da 800 watt, diciamo che per le batterie che avevo, quelle a piombo, ha durato, esagerando, stiamo facendo un po', figurati, ha durato circa un'ora e 20, un'ora e mezza al massimo, dopodiché la resistenza del fornetto, non ti credere che era bella pimpante, era moscia, quindi stava andando a decadere la cosa, però insomma il suo l'ha fatto per quell'ora e mezza, ecco. Quando attacchi queste cose così grosse non è che durano molto, però se tu avessi avuto più batterie magari avresti avuto un qualcosina più caldo, oppure un inverter ancora più grosso. Sì, vabbè, non so se lo sento anch'io, ma ancora meglio, ha un leggero fruscio. Prova Dani, l'ho distratto, riprova. Provo a mettere un pochino di muto. Sì, ce l'hai sotto, tipo quando si aprono un pacco di patatine. Solo che ce l'ho solo io in base alla vicinanza, no, non è così. Comunque il problema dei pannelli solari è solo uno, l'accumulo, e basta, perché l'energia te ne puoi avere quanto ti piace, però se non hai batterie è finito, ci vogliono tante batterie. L'inverter poi successivamente anche l'inverter, però se non hai accumulo di corrente non ne vai nulla. Puoi avere 10 kW, ma se c'hai due batterie a 100 ampere non fai niente. Infatti io ho tutto quanto l'impianto a 12 con 500 ampere. Mi l'ha visto anche Tino, io la notte la luce ce l'ho fuori, ovviamente. prescindere che le luci, più luci metti a LED meglio è, giustamente, perché era un basso consumo. Ma sta consigliando di mettere come si chiama? No, già è così, solo che bisogna avere solamente l'accumulo e tot pannelli che ti diano l'aiuto per la notte, perché se c'hai magari 500 ampere di batterie, un pannello da 100 ampere, da 100 watt, non è che ti riesci a ricaricare anche la luce per tutta la notte se la usi anche di giorno. Infatti secondo me converrebbe un ibrido che fai pannelli solari, fotovoltaico, più l'eolico, come ce l'ho io. In poche parole, quando non c'è sole c'è l'eolico che mi aiuta. Tu quella la centrale di Fiumassato. Manco la cosina del gruppo elettronico che ha avanzato benzina, gas, l'ulturato, giugno. Però con lui sarebbe stato un'altra partita. Un piccolo generatore nucleare, non c'era nessuno di quelli scatola. Ne sto provando a farne uno, solo che manca il nucleare. Vabbè, chiamo Putin, un attimino, scusate. Io ti sento un bel compresso però, Gianni. Sì, devo vedere io, magari la posizione in cui sta parlando, Guarda, magari adesso. Ancora già. Guarda, adesso. Gianni, anche il segnale bip di fine voce è compresso. Guarda, attacco un attimo, no, non è, allora, per me sembra che sei dentro un imbuto, una bottiglia, non si capisce, non è chiara la tua modulazione già, non sei tu, non so cosa tu stia adoperando, però ti volevo avvertire da poc'anzi, perché quando sei entrato poco fa, a prescindere che eri attaccato, eri bello squillante, pimpante, poi sei sceso a 9.40 e andavi benissimo. Adesso sei un pochino meno, però sei con una radio, non dico pessima, ma insomma, non si capisce al 100%, però la posso dare al 60%. Comunque è arrivato anche a Carlo, ciao Carlo, ma sei in macchina ancora? Sì, sono 9 più 30 qua. Qua sei 9, Carlo, comunque la radio è piacevole. Ma io sto chiudendo, dai. Un po' salgo a casa, magari ti faccio sentire da casa, se no ci siete più tardi. Comunque grazie della compagnia del piccolo QSO, alle prossimine o a più tardi. Ciao a tutti. Ciao Carlo. Comunque se interessa qualcuno, Juve 1, Spezia 0. A me sì, bene meda. Adesso ho cambiato il microfono, vediamo come mi ascoltate. Ma decisamente meglio. Vai che tocca salutare Gianni e poi Carlo. Ciao, ci sentiamo, buona serata a te, di nuovo brutta Gianni la voce, non so, sembra che stai parlando con l'aso o con una molletta. Sì, però sono Mazzucchi. Però non dipende dal microfono. Anche il bip è bip, fare un miagolio, non sembra neanche un bip. dai, ci sentiamo le prossime, fatevi sentire, dai. E ogni tanto sto accendendo la radio, dato che la propagazione si sta facendo sentire, dai. E ci sentiamo un altro momento. Ciao a tutti. Ciao, dai. Ciao. Tiro, tu sei col K? Sì. Quella è una bomba, una delle migliori modulazioni di K in circolazione, l'ho sempre detto, bellissima, pulita, chiara, la combattimento però non è distorto. Recularo, questa è la radio che a Claudio non mi è piaciuta perché non riusciva a regolare il PVR con il clavier e quant'altro. C'è anche da dire che preferirei lo Smith anziché questi LED, però vabbè, ormai questa ci teniamo. No, la grande. bellissima. Gianni, provo a parlare, ti ripeto, non sta vincendo bene. Comunque Scese ne ha salvato il risultato, a due metri ha fatto una parata allucinante, a chi interessa la partita. Non è libera, vero? Dove su Sky, su DAZN, dove? No, ma sono tutte su DAZN, a parte forse qualcuno ne ha Sky. Io la sto guardando sul cellulare su DAZN. Avevo la... Vabbè, si può dire, aspetta che questo qua mi ha avuto tutto quanto, ma è Cucciardo, cioè, molto bene, l'ha fatto entrare mio figlio qua a casa, adesso che giocano la palla, non è delicato giocando. Quello, tu ne hai due che giocano a pallone o uno solo che gioca a pallone? No, ne ho uno, l'altro fa box, ah, l'altro è piccolino. Il piccolino fa box? Sì, beh, per fargli fare qualche cosa, è 9 anni. Certo. Occhio, adesso non riesci a tenerlo, tra qualche anno devi stare attento. Occhio, no, inizia a fare una motosega. Ah, lui sì. Vai Gianni. Ehi, dai, stavo attaccando un altro apparecchio, dai. Probabilmente non dipende dai microfoni, ma dall'apparecchio che c'è qualcosa. Non faceva mai niente, sta cominciando a rompere le scarpe. Adesso sei bello, pulito e chiaro, parte l'eco. Però tutto il resto è perfetto. Adesso sei tu Gianni, va bene. Adesso sono con un altro apparecchio e... Vabbè, questo qui è un altro apparecchio, un altro tipo di apparecchio, dai. Ti stavo dicendo, vabbè, avevo un'applicazione io che vedevo tutte cose, però poi vabbè, ho tolto, ho cambiato telefono, quindi non mi interessava, non sono così accanito, non sono accanito, sono rientrato in casa per via di Zlatan, devo guardarsi la Juve, se no sarebbe stato ancora là. Oggi l'hanno preso da lì, da quell'orologio di Reda, c'erano tantissimi. E no, io me li guardavo, però devo dire adesso hanno diminuito la potenza del satellite, no, dovrei spostare sull'altro turco, su questo satellite dell'Azerbaigian, ma tutte le partite, le più belle, sia italiane, spagnole, inglesi, Coppa dei Campioni, sempre a tutte le ore c'erano, CBC Sport si chiama. Però adesso hanno diminuito la potenza, hanno orientato il satellite direttamente nelle zone loro, nei paesi dell'est, per cui con una 120-135 non ce la fai, però c'è l'altro turco un po' più avanti a 52 gradi che quello troverà lo stesso le partite. No, lo sto guardando per comodità qua nel telefonino, così non mi rompo la scatola a cercare niente. Ho capito. Vabbè, oggi ho messo l'antenna, a me l'antenna, vabbè, chiamo sempre l'antenna, l'affilare per gli 80 metri, mi sono gaffarrato, però già l'ho messa, già funziona discretamente, non è in condizioni ottimali, però già mi hanno ascoltato. Bene, sì, già lo sto dicendo Claudio, che ti serviva, anche a me c'è una spettacolo di capo, però io non ricordo. Ma anche tu con la patente, ho sentito o mi sbaglio? Non lo so, vediamo. Buttati lì che ti diverti, anche a me, io ero sempre così in stand-by, alla fine mi hanno messo la cuccia nell'orecchio due carissimi amici, uno era quello che sei tu, la Toge, e l'altro il compare, e sono stati loro a darmi l'input, perché ero un po' disgustato, la volta siamo andati con Fabrizio, questi balordi avevano fatto domande allucinanti, cose, per mezzo punto, 0,25 anzi, neanche mezzo, alla fine avevo studiato, ti posso dire, avevo veramente studiato, ho fatto una domanda strana, mi ha detto pure lui l'ingegnere, una domanda trabocchetto, non sapeva neanche la risposta a lui, sono dovuto informare perché aveva detto che era giusta, comunque tempi passati, adesso ci sono questi programmi online, l'ho dato anche a Luca, forse l'ha passato anche a Franco, sono 22 lezioni, ma fate così a tempo perso, 10 minuti adesso, poi vai in bagno a fare i bisogni, ti attacchi il cellulare e te lo guardi, vai in cucina che stai facendo una cosa, così facevo io, e ti posso dire sono veramente interessanti, infatti da questo radioamatore molto semplici, e poi ti fa il quiz a fine lezione, veramente bello, fatto bene, e ti dico non è complicatissimo. Dico a te, Tino. Sì, vabbè, diciamo che ho poco tempo, perché io tra una cosa e l'altra, io già alle 7 sono già operativo sul lavoro, quindi rientro anche a un certo ora, poi quando arrivo qua devo fare altre cose, non ho il tempo necessario di poter mettermi anche a studiare, però ho fatto dei test giusto qua sul PC e vabbè, sembra che potrebbe andare, però sono sinceramente non sono ancora da darlo. Vediamo. Vai Gianni. E cosa cambia Robè dalla 27 e non fai sempre radio? No, lo sai cos'è il problema, non cambia assolutamente niente, però c'ha le soddisfazioni che tu parli con il resto del mondo, che qua è in VNU, siamo noi, non è, a meno che non ti colleghi con qualche ponte. Ho conosciuto tante persone, collegamenti, ho fatto tantissimi bellissimi collegamenti, posti impensabili usare il 27, ma li faccio quotidianamente con un pezzo di filo, cioè quel dipolo di 40 metri che è una bomba, quello di Marco, fatto da progetto di Marco, io l'ho rifatto identico con le stesse misure e ho collegato mezzo mondo. Posti che tu dici e come cavolo fai, eppure ci riesci ad arrivare, mentre 27 magari in propagazione, però fare sentire l'Australia, ho fatto il collegamento all'isola di Cucu che non sapevo neanche dov'è, e più avanti dell'Australia ci vogliono 43 ore di aereo per arrivarci, di prendere tre aerei, un isolotto sperduto oltre l'Australia, e quello è stato soddisfatto. Lo faccio quasi tutti i giorni, lo sento, e quando te le fai quei collegamenti lì, 27 già. Ecco, sì, perché ha la passione di fare gli ex, sì, è vero, e puoi fare collegamenti più lunghi, più a lunga distanza, però è anche vero che la Diamante usa le ripetitori, mentre 27 sono solo le onde che arrivano, e la soddisfazione è più grande. No, con le mandelli non le uso i ripetitori, vai in diretta per onda, diciamo, magari tu per dire la Sardegna non riesci a parlarla in 40 metri con uno sardo, però parli con uno che è in Giappone, perché l'onda è tutta diversa, c'è una propagazione, un altro tipo di propagazione. Comunque, ti ripeto, anche il 27 io sono sempre stato CB e morirò CB, non ne ho di problemi, ho tanti amici, ci facciamo belle discussioni, come magari adesso sto entrando un po' di meno, però anche di lì ti confronti con persone che ne sanno molto più di te e ti danno delle informazioni tecniche, io sto imparando, l'ho detto sempre, io lì sono un alunno delle elementari e poi ci sono i professori universitari che ti danno delle informazioni che tu non dovresti leggere dai libri. A me mi hanno aiutato tantissimo, qualcuno più degli altri, posso dire, è una bella cosa, anche se lì ci sono anche i gruppetti, come le solite cose, un po' qualcuno magari è un po' invidioso, l'altro un pochettino così, però come tutte le parti già va bene. Dai, mi diverto, io quando mi stufo di certe cose me ne vado da un'altra parte, mi faccio i collegamenti di ex, quei piccoli che riesco a fare, e mi diverto lo stesso. Ok, di nuovo a Tettino. Registrato, sì, sono cose belle, vabbè, sono cose belle anche in altre situazioni, quando esci e che hai altri tipi di frequenze e quant'altro, ma comunque si vedrà, avanti il break. Buonasera. Ora io dalla collinetta mi serve per un controllino di Santiago di Radio, come sto facendo, per chi interessa. Avanti, cambio con la buonasera. Buonasera, ho capito che sei comunque qua, 95 Radio 5, qua operatore Pino Muscolo. C'è qualcuno, qualcuno sottofondo qua, vabbè, è Pino Muscolo mi pare, sì, ben sentito, Tino è sotto di Cordiali, io sono, come detto la prima, Uranio qua, sono giro dalla collinetta, ok, va bene, ti ringrazio del controllo, attiverò quel cambio. Cazzo, Uranio, dai, ciao, mi hanno ascoltato, vai Roberto. Sì, conferma anche il 9+10 qua, la radio chiara ma non chiarissima, dai, potresti uscire un po' meglio, comunque ti ascolto bene, è comprensibile, c'è anche Gianni, vediamo che Gianni è dall'altra parte della città, come ti ascolta, vai Gianni. Sì, ascolto, 9+5 Radio 5, dai. Cosa hai messo? Antenna nuova, Uranio? Più o meno sì, antenna nuova, penso, ma la devo collegare, anzi la devo cambiare l'antenna, non è la M Super 16 che è... E così per in prova, ma la devo cambiare con un'altra antenna, ok. Vabbè, stavo provando così e riprendi e fai girare qua, fate il cambio. Ok, adesso mi sono allontanato dal microfono, vedi un po' com'è adesso la situazione. 1, 2, 3, prova, vai. La radio ha migliorato, dai. Perché prima appunti ti ho sentito gracchiante, ma poi ti ho sentito bene, dai. Va bene, c'era qualcuno, forse voleva entrare, avanti. Ehi, buonasera a tutti. Ciao Antonio, ben sentito, buonasera anche a te. Kappa. E allora, Roberto, aumentato ora te. Sì, bisogna aumentare perché non è già troppo forte. Già basta, tu cosa vuoi fare? 9,60 vuoi fare? Sì, più o meno uguale, 9,30 abbondante, 9,35 arrivi quei picchi. Guarda che adesso non sono attaccato, Non sono attaccato a niente, ho alzato l'antenna. Ah, benissimo, Anto, ho visto l'antenna dove lavori tu, in mezzo a mia strada, quando è quello che arriva così forte. Ho visto tutta facettata, tutta fatta bene, Ehi, a Cianchettino, vetti. Ciao Antonio, ciao. Scusate, sono in verticale, ho un figlio, stavo facendo un letto. Sono con Rix, una fine. Scappa. Io 9.35 ti arrivavo attaccato. Ora sono staccato, Comunque saluto neanche Uranio, te lo sento, Cappa. Da Osilo, così se non mi ricordo male. Uranio, contraccambio mi segnala. Non ho capito, dimmi. No, ti ho capito, dimmi. Ho detto se mi contraccambi il segnale. Certo, vieni avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10 e radio 5, caro. Grazie. Avanti Roberto. Approfittiamo un po' tutti, vai Roberto, vai. Sì, voglio dire Gianni, ma tu lo vedi Osilo da casa tua, si vede? Diciamo che la parte di Osilo si vede tutta la parte della città, si vedono i paesi, però non so se sia Osilo quel paese che si vede. Comunque dovrei vedere, perché io sono abbastanza in alto, anche se sono passato dalla città, dalla tua, che tu sei quasi arrivato a Usino, però già sono nato anch'io. Il mare lo vedo, vedo le barche pure, però i paesi prima erano un po' più negativo, da quando ho messo questa antenna vado bene anche per i paesi. Mentre Tino tu lo vedi comunque? Sì, a Tintino arrivo 9.15, 9.20. No, Tino ho detto, non Tintino, se lo Tino vede a Usino. No, assolutamente, infatti volevo approfittare. Se Osilo mi contraccambia il segnale, io sono molto interno, molto basso, quindi ma si corrigono la zona, diciamo, Castel Sardo, la zona di Capito. Vai, Rana. Ok, caro, anche tu qua devi 9.10 e Radio 5. Quindi posso essere soddisfatto. Bene. Tu chiudi il baracchino perché mi hai assordato e ce l'ho con te oggi. Cosa? Ho detto che tu mi hai assordato, quindi ce l'ho con te oggi. Mi fanno male gli orecchi. Le trombazzate che ti tiravo dietro. Sì, che cazzo si consuma a trame. Per carità. Ciao a tutti, che buonasera, sono di passaggio. Ma sto andando a guardare un po' di TV, stavo guardando la partita qua, ce l'abbiamo fatta anche oggi, abbiamo vinto anche contro la Spezia, va bene così. Ciao Rani, buonasera, ben ascoltato. Qua non ti dico quanto arrivi perché sei di fronte a me. 9.30 Radio 5. Buonasera a tutti, avanti che tocca, la passo è chiusa. Ciao Claudio, hai sentito? Senza voce, cosa stai cantando? Ma che? Ciao Claudio, ascolta un attimino, siccome ho salito un po' più l'antenna, ho migliorato il segnale un po', perché voi mi arrivate tutti più forte. Mi ho parlato in quattro, così hai detto Roberto senza voce. Ti sento rauco, ho l'impressione mia. Insomma, un po' rauco, un po' di freddo abbiamo preso, tanti anni nella buca del freddo dici. Va bene, ok, comunque niente, state arrivando tutti bene, tutto a posto, vi ho sentito, adesso vi saluto e vado a tagliarmi un po' nel divano. Ciao a tutti. Aspetta, quanto ha vinto? 1-0. Io potrei fare il secondo, ma gliel'ho parlato, comunque 1-0, l'importante è che si vince, 3 punti ce l'abbiamo portati. Claudio, dimmi, sono aumentato da te perché ho fatto una modifica all'antenna, perché due mi arrivate tutti più forte. 9-10 sì, Anto, 9-10, non mi ricordo quanto arrivavi con l'antenna più bassa. 9-10 era 10-5, è l'ultimo segnato. Già va bene. Adesso faccio una prova con l'amplificatore per vedere se tutto corrisponde, perché l'ho salita un po', ma allora mi arrivo tutti più forti, anche tu mi arrivi più forte. Vabbè, qualche metro in più c'è. Sì, beh, sicuramente si è tirato su qualcosa, recuperi qualche punticino, si recupera sempre, però il segnale tuo era già ottimo da prima, quindi te la capi molto bene, va bene. No, ti sono stanco, mi stai un pochino, l'altro giorno in macchina, poi mangiare, fare, mamma mia. Siamo stati bene comunque, eh. Un abbraccio a tutti, divertitevela, ciao. Ciao Claudio, passa quando vuoi, lo sai. Ciao Claudio, ci sentiamo, dai. Ne approfitto anche io per salutare a tutti, dai, che vado a portare giù il cane. Ci sentiamo, buona serata a tutti, grazie per il QSO. Prendo anch'io, dai, anche io devo fare quello con PC, poi... Ciao Sparvieri, ti si ascolta, ciao Gianni. Ciao Roberto, ciao Uranio, ciao Antonio e... non so, Carlo c'è ancora? E Carlo doveva salire a casa sua, probabilmente si doveva cambiare. Comunque, ciao Gianni, mi hai sentito? Ciao Tino, mi hai sentito anche a te, poi quelle informazioni quando c'è tempo, magari, non so, o ti fa dare il mio numero da Claudio o passa all'officina, vedi tu. Ciao Muscolosa, ci aggiorniamo, allora. Ciao a tutti. Ia, va bene, vabbè, già avremo modo, dai, già avremo modo anche di fare qualche cosa assieme. Ok, ciao, divertitevela. Sì, ciao, ora ancora ci sei. Hola, mi sentite? No, sta arrivando Santiago 3, mezzo al QRM. Cappa, vado a vedere che ho attaccato l'amplificatore. Allora, prima eri poco meno, diciamo 9.30, quei picchi lo superavi. Adesso sei 9.30 pieno e quei picchi arrivi a 9.35. Cappa, va bene. Già lo grido, esageratamente forte, è uno dei più forti, non dico che è sovramodulata a Claudio, ma vi sentivo tutti e due uno sopra l'altro. Addirittura. Sotto già ti sei, ma tu sei con 44 o cosa sei? No, io sono attaccato al coso, la cosiccia. Beh, c'è un attimo di bianco forse. Ho detto che io c'ho 20 watt, lui ne ha 200 però. Adesso sì, poco fa no. No, se attacchi il 430 ti schiaccio, ti passo sopra e ti desintegro. Se poi attacco lineare allora non esiste più nessuno. Comunque, ho detto che arrivi benissimo qua. Ottimo per la truppa, io sto andando con 20 watt. Ma volevo sentire a Urano come arrivo a Usilo, perché hanno preso segnali fortissimi sia Tino che Gianni. Infatti ho detto, cavolo, Tino arriva 9.10 a Usilo. Non so io se ci arrivo a Usilo. Ma c'è ancora Francesco, ci sei? Sì, sì. Sto chiudendo, dai. Sto chiudendo perché devo fare altre cose. Quindi, ti saluto. Cappa, ora, ora. Aspetta dove sta parlando. Mi ricadere, trovare qua. Ma no, che poi nessuno va, ne manco tu, Roma. Ok. Sarebbe il combo, cazzo. Riprendi Cano Dio. Aspetta, faccia che qua non ti crepa nessuno, manco Roberto. Io ci arrivo, ce lo faccio. Aspetta, certo che arrivi. 9.20 a Radio 5, caro. Va bene, te sei un po' più alto. Va bene, va bene. Riprendi, Roberto, dai, io vi lascio, sono stanco molto. C'è una giornata veramente da divertimento alla grande. Ma abbiamo... Sono stanco. Mangiato un bel... rilassati e abbiamo fatto di tutto, grandissima bella giornata, eh. Vi saluto a tutti, passo in correttice, ciao. Di tutto, anche l'amore. Come? Di tutto, anche l'amore. Di tutto, non ho capito chi sei. Perché ci hai fatto di tutto, anche l'amore. Beh, Fabri. Sì, Fabri, no, non ce ne hanno dato. C'erano un bel ritardone, ma non ci hanno dato niente, Fabri. Va bene, a te mi sta chiamando mio figlio, eh. No, però ci è andato Fabrizio a portare il duetto, Fabrizio. Perciò che se non viene Fabrizio me lo prendo io col duetto. Ci aveva da fare, mancava solo lui, ma ci siamo veramente divertiti, vabbè, veramente alla grande, e poi ci aveva la lancia fulgia, per carità. Quel trombe, quella d'aria del film, quello con Roberto Sordi, ma ci aveva sempre a Tino davanti, ha chiamato Gio, lui. Quello è a compressore, ce l'ho io a cinque trombe che fa taratatatatara, quello lì stai spiegando. Ma ti ho chiesto in base. Ma te danno le macchine, molte del volante. Ma eravamo una cinquantina di persone, 50. Siamo andati a mangiare il turismo di Tergo, ma ti dico, siamo stati veramente molto molto bene. Una grandissima, bella giornata. Ci siamo divertiti da morire. Quello Monte Tusu siete andati? No, a Tergo, Monte Tusu era andando a Nulvi. A Sabindano, Bene, siete stati a mangiare? Sì, sì, siamo stati benissimo, un bellissimo locale, c'è la musica dal vivo anche, ti dico, siamo stati veramente molto bene. Adesso una di queste domeniche invece usciamo per i fatti nostri, senza il club, prendiamo un po' di macchine e cioè scendiamo più a pranzo a Stentino. Va bene, se capita, se c'è posto, ben volentieri ci prendo. Veramente c'era anche oggi il posto, non si è voluto venire. Non so che impegni avevi, ma comunque io te l'ho detto, venivi con me, con Tiro, con Walter, con Italo, ce n'era di gente da poterti, ti prendevi una macchina anche tu per i fatti tuoi, non c'era nessun problema. No, ti ho detto, c'era questa amica di mia fila, l'ho dovuta accompagnare all'aeroporto alle 4, sono partita alle 3 e mezza perché prendeva l'aereo alle 5, che hai sbagliato il burro all'aeroporto, anziché atterrare a Coso, a Malpensa, ho sbagliato le prenotazioni, l'hanno fatta atterrare a Bergamo. No, siamo stati veramente bene. Una grandissima bella giornata e io sono già oramai iscritto. Oramai non me ne perdo una di queste manifestazioni. Sono molto belle, ho conosciuto della gente nuova, qualcuno la conoscevo già, però sono stato veramente bene. Vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao anche a Fabrizio e tutti, insomma, un saluto a tutti i circolari. Chiudo, vado a tagliarmi un po' e poi mangio una cosettina proprio così, leggera. E boh, perché domani tra l'altro, mamma mia, domani c'ho il dentista a mezzogiorno, che palle. Dopo c'è Milan-Napoli, mi è un quarto. Perché? Ciao, mi dice anche Daniele, è venuto a trovarci. Hai visto Daniele, in quella macchina cosa c'era? Il baracchino radio con il microfono. Bellissima, buonasera a tutti, Bellissima, bella. Ciao Daniele. Ciao Daniele, buonasera. Guarda, chissà cosa per il fuoristore della macchina d'epoca. Quanto arrivo nel tuo QTH che ho salito l'antenna? 9.36, Antu. Andare. Sì, ma c'è anche tu, c'è già tu. Ma Daniele, la prossima volta magari ti avviso un po' prima vieni anche tu, vieni con me, capito? A sorprenderti e vieni con me. Il posto c'era, solo che noi ci siamo sentiti in ritardo, se no saresti venuto. Cappa di Roger, la si può fare qua. Già mi piacciono queste cose a me, queste cose di fare in girella così. Già è bello. Ehi, Daniele, già ti avviso, la prossima ti avviso. Sì, vabbè, eravamo già in ritardo perché avevamo un sacco di tappe, programmi, siamo entrati dentro Castelsardo, abbiamo fatto tutta la zona su di Molteddo, siamo andati alla Rociera Elefante, poi da lì abbiamo fatto di nuovo tutto il giro, siamo scesi a Tergo, siamo andati al monastero di Tergo, e poi a Luna qualcosa, siamo incamminati per l'agriturismo e quindi siamo andati a pranzo. Ok, di nuovo a te Daniele Maica. Brava. Beh, poi è continuato qua il pranzo, tutte cose. Sì, beh, poi da lì siamo andati a pranzo, dove c'è il distrutto, siamo andati a pranzo. Siamo arrivati a casa alle 5:30. 5:30, si meno 4 per sistemare le macchine e tutto, insomma, poi bellissima giornata, voi ce l'hai visto, bella rilassante, bella tranquilla, con gente nuova, che non ha niente a che fare con la radio, insomma, va bene, ben vengano queste manifestazioni, adesso ne faremo ancora delle altre, dai, io vi saluto, ciao a tutti, buon proseguo e ci sentiamo alle prossime, cambio per te, Roberto. Sì, ciao Claudio, ben sentito, dai, rimango ancora un pochettino, poi vado a mangiare. Ok, vai a tu. Capa, ciao, ce la risentiamo Claudio. Ciao a tutti, vai Daniele. Ehi, a Claudio, ci aggiorniamo prossimamente, dai, buon proseguimento e buon tutto. Riprendi Roberto. Daniele, ma un capo è questo? E si conferma. 14 o 44? Io sono fedele al 14. Cappa, dimmi un po', ma tu perché c'hai macchina d'epoca, Daniel? No, adesso ho la 147, però a posto di prendere fuori strada e stare lì a fare in mezzo al fango le morte di pappa, se trovo un'occasione, appena un modo, qualche macchinetta d'epoca, vabbè, se lo so già, cosa vorrei, ma così chiamo. Che genere vuoi di macchina? Che cilindrata e che marca? Se mi metto a volere a dirtele tutte robe qua, è proprio una scelta, a me piace soltanto quelle italiane, da vabbè, Lancia Delta e quelle prime classifiche, la Monturbo, le Alfa e via dicendo. Vabbè, non è che ti voglio parlare, parliamo di macchine da usare anche tutti i giorni, anche un 112 Abarth non è brutto, no? No, esatto, vabbè, Ferrari, quello è irraggiungibile, però sì, una cosa del genere, dai, ho detto, uno turbo, quella è bellina, quelle Alfa che c'erano.